non mi viene il nome, hanno un nome famosissimo, ma non mi viene. Sì, li fanno col riso, è tutta una cosa lavorazione particolare. Poi li mettono in queste brodaglie di chissà di che cacchio di animali o di che erba ci mette, babba via. Vai Anto. Cosa mi hai detto che stavo rispondendo a un'altra persona? Ho detto queste specie di spaghetti che sono simili, cinesi o coreani o vietnamiti che siano, sono fatti col riso, ma è tutto un altro gusto. Io non li ho mai mangiati e neanche a pensarci. Forse se stai morendo di fame in carezia ti li puoi mangiare, ma con la cucina migliore del mondo che abbiamo non vado a mangiare queste schifezze qua. Cosa che c'ho pucaccioli, cosa? Qua che ci ho frequentato in quei posti a regalare le bombole, non ne abbia con immondezza quando cucinava, eh? No, ma adesso magari sono più controllati, però non esiste. Cioè io dico, cioè abbiamo la cucina buona, io mi mangio i pasti buoni, non vado a cercare cose, gusti strani. Vai Gianfranco, ancora un paio di minuti e io chiudo. Io invece sto ancora smentendo con quell'affare, tra poco infatti spengo tutto. E poi vediamo cosa si deve fare, perché oltre non si può andare. Già fra l'ultima conclusione, così tagliamo la testa, ma quello che c'hai tu, con quello che c'hai tu, vecchiotto piccolino, funziona? Vecchiotto piccolino? No, allora, io ho l'HP i5, su quello funziona, ma quello c'ha 6 giga di RAM, cioè ne ha tre volte tanto quello che c'è questo qua che mi ha dato. E poi non parliamo delle prestazioni del processore, sono almeno 4 volte superiori, quindi non si parla neanche del doppio, ma le 4 volte. Poi c'è il sistema operativo Windows, sì, però è Pro, quindi è più aperto, più usabile, dai. Il tuo probabilmente inizia già a doppitaccare se ne mettiamo Windows Pro, perlomeno a quei livelli sono riuscito a mettere il Windows Home a 64 bit per un po' aiutare il processore. E poi niente, ma ripeto, siamo sempre lì, Robby, ci stiamo afferrando per una cosa, è come andare a fare la corsa di Le Mans con una motocarrozzella, ecco, perché quelle lì sono motocarrozzelle, questi dongle. Adesso ho quasi finito di installare il coso, la mia chiavetta, che è sempre una chiavetta, però certificata, ed è esclusivamente per usarla con la DSB, con il radar aereo. Vediamo cosa ci dice almeno quella, se non installa quella abbiamo chiuso. Buonasera. Aspetta, scusa un attimo, Gianfra, quello ti volevo dire, tu mi hai detto, ne avevi un altro che non stavi utilizzando, se eventualmente non lo utilizzi, pagandolo, non al regalo, perché regalo non si regala niente, se te ne vuoi disfare ci mettiamo d'accordo o cosa dici? No, perché non si regala niente? Vabbè, tu sì, si può dire nella categoria del commerciante, io ho regalato tantissima roba senza chiedere niente, cosa c'entra? È un mini PC, tutto lì funziona bene, eccetera, ma anche quello ha fatto spu. Non ce la fa a gestirla quella roba? Ah, più che altro sono i driver che non ci va d'accordo, tutto lì è il problema. Li vede, sì, li vede, però avvi il programma e ti dice, Asco, dammi qualcosa di meglio. Lì devi saltare direttamente a un prodotto più moderno, dici? Beh, se vuoi certe prestazioni, sì. Io stavo guardando, infatti, quelli della RTL SDR, la vera, quella che potrei vedere anche su internet. E quelli costano, lo so, poco, siamo a 45, 50 e 50 dollari, giù di lì, però sono garantiti almeno, capito, certificati. Ma io, scusate, ma lo puoi, tanto sto per chiudere, quello che voglio capire è Capri, il figlio Claudio, con un computer più vecchio del cucco, molto più vecchio di quello, Windows 7, attaccato immediatamente, funzionava tutto perfettamente, bello, infatti sono rimasto a bocca aperta. Come mai un computer con un Windows 10, un pochettino più prestazionale e tutto, non riesce a farlo andare? Ti potrei dire il mistero della fede, però poi bisogna vedere cosa è installato, cosa, come è fatto sto computer. Magari a posto di averne due può essere vecchio, ma c'ha 4 giga di memoria. Questo non lo sappiamo. Perché col mio portatile, che ti ho detto il Toshiba 2013, l'ho fatto vedere, mi sembra quel Toshiba, che c'ho io, quello lì lo gestisce benissimo. Non so, guarda, non c'ho risposta per queste cose. Non c'ho risposta, ho già provato i 3 di PC, qualcuno ha funzionato per un po', poi gli ho tolto anche le cose di licenza, di firma digitale del drive, ma niente da fare, quindi qualcosa c'è. Comunque dai, sono su in settimana se riesco a tirarne fuori qualcosa. A mandare ti installo i soliti programmi e buonanotte. Perché oltre a perderci tempo, guarda, compro un computer e te lo regalo, faccio prima, molto prima, perché ci sta una settimana, ce ne stai due, la cosa inizia a essere, come si dice, molto, molto, molto, molto pesante. Infatti mi dispiace quello lì che ci sta prendendo un sacco di tempo, a quel punto la sabbizzi, come si dice, si va. Io però signore adesso mi devo andare per la partita, saluto a Luca appena entrato, ciao Antonio, ciao Gianfranco e ciao amici qualunque ci siano qua in ascolto, io faccio corretti, ciao ciao a tutti e buonanotte. Mi associo perché anch'io devo scappare, ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Luca, buona serata a tutti. Capo, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao a te Roberto, ciao, ciao al prossimo. C'è anche a te Gianfranco. Avanti Luca. Sì, ciao Roberto, c'è Gianfranco. E beh Luca, mi ha detto controllando, sto cercando il foglio dei vaccini. Non so perché cavolo l'ho messo, forse questo qua. No, fatto affidamento. Questo è il foglio del cane. Ma trovo il foglio del vaccino. Non so. Abbiamo fatto, questo è quello del passaggio della moto, niente, non la ciappo, quindi sono mio papà modifica all'alimentatore, gli ho messo, come si chiama, un diodo da 100 ohm, la ventola è lentissima, cioè lenta, giusta, come la prima, adesso è a posto, non è quella come veloce. È un mio JKP, già sta, è lontano da qua, quindi non me la fotti nulla. Perfetto. Ma io l'alimentatore li tengo lontano, capito? Quindi non me ne frega niente. Gappa gappa. E vabbè, abbiamo risolto. Allora, so che devo fare una prova, che non l'ho fatta. Come si dice? Ma questo, speriamo che non scaldi questa resistenza. Ok. E se no. Dopo. Cioè, ma è il suo costantino allucinante, oh. Perché? Avevo passato oggi e ho preso una birretta e non vi la chissà che ha fatto il compleanno da Retro Bancone. Ma dimmi, ma come, ma che te sta questo? Ah, lì sta lavorando. Dammi anche un cazzo la piglia da in chivi. Cioè, ma giù mi tu gussi. Vuol dire buoni redditi. Ma dai, tu non conosci la gente. Cioè, cazzo, cioè, cosa ne sai tu, carichita? Ah, non lo so, tanto. Ti dico, a me non mi interessa. Paga un qua. A chi mai non ti vedi? Ma ne gussi mai tu, subito. Pare che fosse il furbetto, non ti vedi cosa strana subito, c'è una tarietta tra i denti, lui è carezza ragazzi, una cosa non l'ha mai visto, chi fa una sarà? Già l'avrà visto, ma si tira troppo però, poi si lamenta, che ripari la roba, fai punta, se sei guglione. Su io porno l'avrà visto. Comunque sto progettandomi. Devo fare una prova, per sabato sto progettando. E poi me lo 12, aspetta due secondi, Anto, adesso sono qua, Eia, cazzo sono io Paul, Provisi, Anto. Fatto, vai. Sì, stavo misurando un coso, dai, ho chiamato un messaggio. Non dico dopo. No, ma sono contento per l'alimentatore, troppo casino Valdia, troppo casino, troppo. E poi per la vivo me, non la vivo, non c'è più nemmeno, se prima puoi comprare non la vivo, basta, che dai. Ce ne avevo, ho voglia. Ah, bella. Beh, mi sa trippa, gatto, mamma mia. Uff. Facciamo troppa cipolla, Marina. Troppa zioda da fuori. Adesso mi mangio, proprio mi dà qua. Un dolce perché sono piuttosto gamato. Tutti più gamato il gioco. Mi adro di oggi. Dimmi sa, cosa c'è? Luca! E vai va! La sai una cosa? Ci siete qua morto di fame e con la fame. Quindi non ti lamentare. Sara. Sara, cosa hai detto? Se? Che c'è gente morendo di fame, che è da che mangia poco. Capito? Vabbè, l'ho capito. Ma il discorso è che c'è messo troppa cipolla. E c'ho sullo stomaco. Un bombardamento, saluti. E un repo di droni, saluti. Bene, voi andiamo. No, sto pensando per sabato, che mi sa che ce la facciamo bene sabato, ce la passiamo. Non vado da Edo, Allora, io venerdì sono da... Mirko. E sabato me ne vado... Adesso vediamo. Andiamo via Sardegna. Dove c'è la Malarregna? Ma se scendiamo giù dove ti ho detto, lì si fanno le 3, le 4 del mattino. Ma cosa mi ne affutti? E cosa ti credi che devo andare a fare? No, questa volta qua ci vado venerdì perché faccio poca disponibilità, la verità. Però sabato ce la vogliamo godere. Ascolta a me, ma tu sei andato via alle 3 domenica, oggi è, perché alla fine è domenica, alle 3 sei andato via, alle 4. È una cosa del genere. Grazie, gratis. Vabbè, proprio gratis, sì, no, perché alla fine gli ha fatto il mio di compleanno. Che se io vado a prendere una sala, mi costa un po' di nami. Alla fine. Ah, vabbè, se io è andato a cercare una saletta per farlo, fare la musica, è cosa che mi era gustato. Invece l'ho fatto lì, ma io l'ho aperta a tutti, non me ne ha fatti nulla a me. Alla fine è una cosa ricambiata a me. Beh, la fine gli è stato bene. Cappa, mi ha ritirato la torta, mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro. Vabbè, dai. Diciamo che hai contraccambiato il favore, dai. Facciamo così. Hai contraccambiato il favore. Andiamo a fare così. Cappa. Oh, via, cazzo, non so. Un pigiamando pure io. Tu pigiamando non è grazie a Gappa, non intende. Sì, alla fine è successo così, è successo che è contraccambiato, quindi ora la mano la fa l'altra, capito? Non è che mi butti a lamentare, sai, perché lui mi ha fatto un favore e io ne ho fatto un altro. Però se la cosa fa sabitudine non mi andrà più bene. Vabbè, se c'è così va bene, ci mancherebbe. Però il discorso è sempre quello che tu hai la trattatura che hai pagato e la dai gatto così a cane e porci, nel senso che non ti puoi pagare, io non l'avevo fatto, E lo fa un piacere, un amico del compleanno, proprio fa grazie, non mi interessa. Però questo è considerato che lui ci guadagna pure. Capisci a me? Maria, buonasera, salvo. Buonasera. Avanti, chi è? Marino, ciao Luca, ciao anche Antonio. Un controllo per cortesia. Tanto Marino, quasi 9:20 c'è da me, avanti. Anche da me sei 9:20 Radio 5. Benissimo, ciao Luca, ciao Antonio. Avanti Luca. Però Mari sei negativo, eh. Non è sei negativo. Prova a fischiare. Come sei negativo, Antonio? Un pochino di negatività c'ha. Sono cattivo oggi, Oggi sono molto cattivo, non lo so. Ok, ti ringrazio Luca, ciao Anto, a domani, dai. Mi sembra che sono un controllo, sto facendo una prova. Ciao ciao, riprendi Anto. Ciao, tra me e Luca, che segnale ci dai? Prova tu. Ora, vuoi tre prova. Allora, 9:18 e Luca, riprendi, prendi Luca. Luca. Scusate, mi sono spostato, io sono per rispondere, vuol dire che mi sono spostato, eh. 9:10 Luca. Vabbè, ma arrivi benissimo, eh. Arrivi benissimo, io sto andando con 10 volte un watt, boh. Ok, va bene lo stesso, eh. Ottimo segnale, sia radio, segnale, anche Antonio, ok. Antonio riprendi, va, che mi stanno chiamando. Ciao, ciao, domani, ciao. Ciao Maria, ci sentiamo. E vabbè, sono due posizioni diverse, io sono più favorevole per Ottava. Ciao Marino, alla prossima, salutoni. Vaffanculo, Marino, metti notifiche di coso, di quel programma che doveva già ne a cantare, vedete a cosa? Come si dice? Mi piace tanto. Vabbè. Thank you. sera. E allora, io cantando di gioco. C'è una cagata che ti passa. Cosa? A cantare che ti passa. Ecco, questo sono io cantando, sotto zero. Sono tu ci sento. No, c'era Luca, c'era. Luca, amico mio. Dillo secondi, ciao amico mio di Porto Torres. Mi sto piegando la roba, dai, che ho fatto un po' di lavaggio a casa della mamma. Ma la sto piegando. Piega, piega, piega. Ragazzi, io sono entrato a salutare, diciamo, stavo da mangiare, sono entrato al suo lavoro. Dai, ci sentiamo, oggi sono una bustina ai coriandoli, a pizzi. Cosa mi hai detto? Se siete sovramonulici. E avanti, no. Mi ho detto, amico, tranquillo, vai sereno, vai a cenare, tranquillo. Ciao ragazzi, ciao, a più tardi casomai, anzi no, perché stiamo per entrare presto al lavoro. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao caro, ciao. Ciao gente, ci sentiamo. E cappa, non arrivi da ancora l'antenna, Savilio. Già lo so, ma che sto il numero del corriere? Te l'ho dato io. Senti chi va, mi tocca delle 3-4 che a me non mi interessa. Ma sai guarda la canzone dei canali del televisore, Antu? Ah, tu vabbè non ne guardi. No, non ho ancora, forse l'ha fatta Sara, ma è fatta la canzone del canale. Sì, insomma sì. E faccio un 2. Mi ha salutato. Quello c'è il D2, c'ha. Ehi, non di tua generazione. Sì, ma prima dava tipo 230-40 canali, adesso ne dava 89, 88. Cazzo, fusa lo sei fendi, il ricco sei fendi. Quindi di decoder, li sta anche configurando. Facci quello, mi fanno fatti pagare. No, e sono intorno ai quasi 40. Dipende cosa vuoi. Vabbè, uno che non ha coso, qualche cosa deve fare nel furgone. Uno che non ha mezzi deve comprarlo lì per forza. Oh, ma dimmi tu, questo tipo di Alghero, vabbè, uno di colore che abita l'Alghero, Sileni mi usa il buon telefono, ma Sileni mi compra e mi ha fatto una domanda stamattina, mi ha detto se il telefono ci aveva la garanzia, però il telefono garanzia, il telefono è nuovo, funziona bene, perfetto, tutto quanto, mi ha fatto solo perdere tempo. Arriva ieri, vabbè, stamattina è arrivato, glielo lancio sulla fan, il telefono è questo qua, mi fa, c'è la scatola, sono stato non ne ho, perché dice che io devo spedire in Senegal, non sono comprato, mi ha fatto perdere tempo, accendimi lo zebedu, tu scemo, vabbè, comunque, ma è dalla favola, mi ha contattato questo tipo, il borrattore, sì, ci siamo incontrati alle 5 di al distributore dove c'è la Ushan, e l'ho data questo qua, era, no, contento, super contento. Io mai, non ci rompi male, sa niente. Infatti. Infatti mi ha detto, vabbè, è venuto, mi stava scrivendo più volte. Mi ha detto, no, ancora no. Ma tanto gli ho detto, sicuramente non lo vorrà. E infatti così è stato. Ma meglio che non se l'abbia preso. Perché se vuoi la bucata, la garanzia, 120 euro, va a pagare di nuovo e girami la borsetta. Poi ho un telefono a tu. 64 giga di memoria e 4 giga di RAM. È così. Cioè, buono. Un telefono buono. Ma che ci sono? Ma carità. Sei già vedo un mao. Punto. Allora cosa come ne va? No, ho già venduto, amici. No, non ne ho, no. Infatti devo fare contrassegna come venduto. Guardate, su Facebook. Fanno lo botta, va, che non ha giugato. Se no, c'è la privimi, capito? E c'era la madre, un mese fa, 2 mesi fa. 64 stava cercando un telefono così, 7-4 giga di memoria almeno e 4 giga di RAM, massimo da spendere 120 euro. E sicuramente l'avrà trovato, perché l'ho messo nei vari gruppi. E vabbè, da te comunque era abbastanza nuovo quanto. Allora veramente. Poi c'era anche. Cosa adesso? Avrà. Cosa avrà? Un anno di vita. Perché non ce l'ha più la scatola? Perché a me l'hanno dato per pezzi, allora io per non buttarlo, lo sono sbloccato. Cioè me lo sono riparato, dai. Ho cambiato il display, ho cambiato tutto il coso del display originale, alla fine non voglio guadagnare nulla. Vabbè, e a chi canto si può dire a vendicchio? Ah vabbè, più di quella cifra lì non lo potevi vendere. Alla fine lo potevi dare, cosa ne so, 110 euro senza caricabatteria. La caricabatteria costa 20 euro, circa, col cavo. E vabbè. Ormai è così rimane. No, comunque ho detto, se c'è il problema fammelo sapere. Infatti mi stava dicendo, cioè mi stava dando i soldi senza così. Ho qui ascolto la chiusura, ho detto aspetta un attimo, te lo accendo, davanti, lo provi, sì a posto, questo telefono è abbastanza nuovo. Dai, non c'era nessun problema, dai. Beh, hai fatto bene. Non so quanto sia costato il display, però. Ti andava. Non te lo dico nemmeno. Per cosa un display? 80 euro. Quasi. Forse di più 80 euro. Io ho preso LCD con vetrino, vabbè, completo, assemblato, più il frame, completo, cioè tutto. Da quel telefono là ne ho staccato solo la scheda madre, tutti i pezzi, il collettore di ricarica, il vibro, cioè tutte queste cose, l'auricolare, il tastino, la tensione. Ho capito. Ma devi puntare la giubbo su caricabatterie puro, così non faccio guadagnato niente. Niente, tu l'hai riparato, te lo sei venduto. Se mi ha recuperato di a me, da. Cappa. Ci sono telefoni che non ne vale la pena proprio. Ah, ma con te zio non recuperate, dirai. Ma, cos'è che stai zio? Nulla, tu. Cazzarola. Ti ha colcato in bocco, ribezzi, ya. Xiaomi, ma è riparato neanche. Cosa? Xiaomi, ma è riparato neanche. Sì, a Antonio Riserva, lì ce li ho cambiati. Ha crepato. Allora, il telefono sicuramente ha preso anche acqua. Vabbè, non tanto, cioè, non è caduto in acqua, però umidità in bagno, la figlia si faceva la doccia, c'è l'umidità. E in più c'era il vetrino spaccato. Quindi ha fatto un lavaggio con una macchinetta che ha lui, ha lavato la scheda. Abbiamo cambiato il display, abbiamo provato, è perfetto. Ah, già va bene. Che modello era? Ah, boh, non me ne dico. Comunque era un 64 giga di memoria. Di chi Simone, allora? E mi sono pagato 100 e più euro, non mi ricordo. Di quelli buoni, forse. Ma io voglio essere pigliente. Cara è pigliente? A Rubentus. Boh, non so più come entra una volta, no? Cosa, non lo so? Non sono più come una volta. Scialoppa, signato. Scialoppa, loppa, loppa. Troppo, io così. Mi sarà tu cosa la batteria di Ghisto, se mi si dovesse guardare. Vabbè, non costa una volta le batterie. Poi i telefoni sono buoni, però... si dice. Ah, questa è una cazzata la batteria. Di queste già non costa molto. Qua c'è ma un euro, la vedi. Ah, l'ho cambiata già. Ho cambiato a un iPhone 11. Sì, un iPhone 11. lo so, quelle là poco costano, anche 40-50 euro la batteria costa. Già lo so, già, non ce ne va nulla. Che cosa? Chi si telefoni? No, cazzo, sono buoni, altro, sono veloci, altro che, cazzo, non ci viene nulla. Solo che è un sistema di merda. Che si blocca, cazzo, è un casino. Dove andare alla IP fatto sbloccare. Ah, per carità. La cosa, non si viene nulla, non si viene, cioè, hanno mille vecchi anni. Costano troppo, poca resa, non fanno neanche tutto quelle cose, quel cazzo di telefoni lì. Lo so, costicchiano, là. Un ragazzo gli ho riparato, però dice che stavano problemi, non lo so, siccome ho smattato batterio al telefono, l'ha disintegrato. L'iPhone 11 Pro Max, quello è un telefono che costa ora come ora intorno ai 700-800 euro mi pare. Si è comprato l'ultimo, il 13 Pro, cazzo, 1500 euro di telefono. Sì, ma si ricuda a terra, cosa lo compare già fa? Di là è tu. È un malato di mente. No, io tutti i telefoni che ho avuto sono sempre nuovi. Ci sono quelle persone fissate, tipo quel telefono che tu lo apri, tutto un display, costa 1600-1700 mi pare. Sì, allora può costare così, però se uno lo tratta bene, ti dura una vita, ti dura. Chi no, non hanno senso di niente, non hanno questi vicini da va. I miei, guarda, i miei sono sempre nuovi, tutti quelli che ho dato nuovi, magari un po' dall'usura perché magari ce l'ha avuto un po' di tempo, però nuovi. Che telefoni hai perché? Quelli che ho dato ci ha avuto Huawei, ci ha avuto altre marche, ma adesso c'ho questo qua, il Xiaomi, cioè Redmi, ce l'ha anche Sara. Se tu li guardi, non ci sono nuove. Anche lui non è nuovo, solo che vabbè, qualche graffettino c'ha, ma non è soprattutto che si sente, è graffiato come lo mette in tasca, magari sbaglio, mette le chiavi, praticamente non ho più messo il vetrino, io ho cambiato tanti vetrini. Già parte un bel. Ci spaccavano subito, dopo ogni volta, ragazzi, in cuero, sai che ti vedi nel giambato. Tra questo qua è fiammante. Questo l'ha costato, sì, me l'ha venduto, quasi 700 euro. Già lo so, già. Ma no, io la verità. Qualche graffietto c'è, ma non va nulla al telefono. Cosa? Scusa, che stavo ascoltando un audio. Ho detto, qualche graffietto c'è così, però non ha niente al telefono. Il mio è abbastanza veloce. È super veloce. Si vede Marina. C'è se drumbita. Ha fatto l'avevo continuato oggi. Travagliato. Ha lavorato a casa di mamma, di sua madre anche. Abbiamo pranzato, siamo stati in campagna. Poi siamo andati a fare delle commissioni per me. Mi ha dato lo sbaglio. Mi sono capizzato. Tanto fatelo controllare. Appena che posso, va, qualcuno me lo controlla perché mi gira in delle balle. Scappa. E così è lo. Io lui se mi buschi serate. Ci rivediamo i soldi, eh? Ce la facciamo. Scusa, stavo ascoltando un audio, dimmi. Ha detto, se mi buschi serata ci dividiamo i soldi. Ah, e cosa fa? È che è un casino, tu, capito? Anche per il karaoke. No, vabbè, se mi buschi cose, la ricompensa te la do, giustamente, perché no? Perché tu sia gratis, no? Ah, guarda, sarei stato più contento così, la verità, Ma non ti preoccupare. ti preoccupa. Quando io sono nei posti, mi bevo la mia birretta, sto lì, mi diverto comunque, non mi interessa. Solo che ti devi organizzare bene, capito? Non ti preoccupare che già mi sto già organizzando, mi sto piano piano. Ma sai che mi piace la trippa? Ti piace la trippa tu? Sì che mi piace, ma troppa ziota non andava. Vabbè, ma io ho sbagliato, lì dovevo mettere il mezzo soffitto, era meglio. Comunque, dovevo mettere il misto soffitto tanto che è meno più umido, alla fine non sente più questa cipolla. Sì, c'è un iadrodio. Ok, dai, lui, adesso vado, mi addormento un po' perché sono stanco, sono molto stanco. Dai, buonanotte, dai, ci sentiamo, poi dico cosa c'ho in testa. Ehi, ma la ripeto in capo, anche me, ne più di me, e manco di te. No, c'ho in testa di sabato, no, sabato proprio non vado, dai, tu. Ci vuoi te purruggiare la canna. Se me li hai purruggiata, mira. Chiappa. Ma non è che volta con lo zio ci guarda nel callaccio, no? Carità, che uomo invadente, mamma mia, va. Poi ti sta addosso, io non lo posso comprare, non lo fa bene. Ma girami le scatto, lasciami in pace. Non ti indi a te. Pucci, che... Ma secondo me si fa, oltre che le canne, a me mi pare che tiri a bua a carta cosa. Luca Palomucci dire. Cappa. A me mi pare che su, io non ci tengo, ci non tengo. Vabbè, poi bello, un bel. Se hai visto un TV di squadra. Già lo so già. Io andare a Graghicina pure vedo. No, una 600, non qua quanto. Del 2009. 7600, 1100 di cilindrata, 2009, ottime condizioni generali, vettura unico proprietario, equipaggiata di tutti i comfort. La sua categoria, climatizzatore. Se vuoi stessa, sto cercando una macchina così, ma a 4.700 euro. Oh, è nuova di pacca. Ma guarda, ci sono le punte, ce le trovi anche, le trovi. In casa meglio e meglio, papà, gli amici, sa. Mi prendo una punta, che sto anche più comodo. Bella, nuova, ma proprio nuova di pacca, Ma 4.500 euro, secondo me, è troppo. Troppo cara. Una 600 è troppo. Detto meglio e meglio, a quel prezzo lì stai trovando la grande punto. Sì, anzi, grande punto, una macchetta piccolina così va bene, se ne frega. Poi ha tutto, è condizionata, se vuoi stesso, va tutto. Come la sto cercando io. Però è che è troppo nuova. Non mi serve anche per farmi lavori, spostarmi, capito? Però io ti dico anche una cosa, che per quello per prendere una 600 preferisco per prendere una macchina del genere, perché almeno so che è una macchina anche sicura, capito? Non è a caso che te esaginano. Vabbè, ma vanno bene, a me già mi avrei voluta, va. Non ho pretese per quanto riguarda un'autovettura. Mi va più che bene, non mi interessa una cilindrata, un 2.000 o 3.000, ma fuga. Ah, la comodità. Io consiglio sempre, se lo trovi, un bel multijet, se lo trovi, a parità prezzo, anche di meno, dai. perché sono motori che se sono a posto, guarda, poi lascia perdere. Tu che benzina, eh? Sì, ma ora come ora tu. Ma che tipo la potevo fare, ma purtroppo. Purtroppo non si può. Non si può perché si è messo pagando il dentista. E piano piano lo. Tu aspetta, prima di comparare tu aspetta. Aspetta un altro po' per tra compareggi. E guarda, questo è come una Lancia Y 1003 multijet, auto in perfette condizioni, come si può vedere dalle foto, intera praticamente immacolata, qualsiasi prova anche con il vostro meccanico di fiducia, anno 2008, giusto qualche graffio dovuto ai parcheggi, 194.000 km, sembra così, nuova, 2007. Ma che modello è? 70 cavalli, 75 cavalli o 90? 90 volami. Boh, non ci sento niente. Mentre molti jet, non ci sento altro. Non lo so. Catta chi sa di babbo, con un'accelerata, dai, ed è poco sgomma. Non ce l'ha più quella grigia, no? Grigia, un giorno non ce l'ha più. Ci abbiamo l'altra, la blu, quella multijet. E che l'ha più vista proprio due anni tu? E che ha più vista? No, oh, quella non ce l'abbiamo più da anni. Ci abbiamo la punto, ci abbiamo, ma però il modello multijet, ma c'è da tanto tempo, eh. Ah, io l'ho provata a entrarci in deposito un giorno. C'è più di una volta. Cazzo, ma come ti culo accelerata? Cazzo di attrezzata. Vabbè, sono, ripeto, da tanti anni che ho dovuto fare. Da un bel po' di anni. Questo ci avesse sempre la stessa macchina. Break. Avanti. Ciao, piripi, piripi, pipi. Chi è? Ragazzo. Piripi, piripi, piripi, pipi. Gare, avanti, è un segnale che non è forte. Ma chi è Gare? Avanti. Buonasera, parlo normale, va? Oh, buonasera, buonasera. Ma a chi sei, sei la sorella di Antonello? Cazzo, che figa, tutti mi riconoscono. Giovanna. Ma buonasera, Giovanna. Buonasera, come va, ragazzi? Come vecchi. Ragazzi siete, mica siamo vecchi ancora. Cappa, già non siamo vecchi. Cappa, io mi sento vecchio, Più vecchio di voi due di sicuro. E tu ti senti vecchio, sei giovane. Io giovane, mi sento vecchio, non ce la perdere. Guarda che pieno di acciacchi. Acciacchi contro acciacchi. Come si dice, acciacchi si gira. Vabbè, ma quello è normale perché quando eri giovane dovevi asciugarti i capelli. Brava, brava, visto vai. Proprio quello mi ha rovinato, Mamma mia, va, tornando indietro. Mamma lo diceva sempre, mamma, non uscire. Io ci uscivo in moto, con i capelli bagnati d'inverno. Lo so, ma che a me ha rovinato. Vabbè, tutto bene, sì. Sì, tutto bene, sto facendo la mamma a tempo pieno, per la casalinga. Vabbè, ma dove sei, Antonello? No, sono a casa giù. Oggi ti ascolto bene, Prima ti sentivo non bene, ti ascolto benissimo. Aspetta 10 minuti che Antonello vuole accendere il gioiellino. Antonello, lì ce l'hai. Sì, la mascotte. La mascotte? Ruttubucco. Aspetta, non so mai che prenda il fuoco e mi allontano. Ruttubucco, fratello. No, ma a me non mi arriva fortissimo. Ma forse c'è il dipolo, forse. Non lo so. Perché c'è il dipolo? No, non, è che non so che antenna ha, però non mi arriva fortissimo a me. Te lu. No, segnale 3, però l'ascolto bene. No, anche io, la verità. Segnale più o meno arriva a quanto è te? 3, 3 e mezzo, così. Allora, ecco la foto esclusiva del taglio della veste rosso di 113 anni per il Vaticano tagliato in Trentino, esattamente ad Andalo. dato ai cittadini romani circa 170.000 euro. Esso, cavolo, 170.000 euro un albero. Salvia. Come ho detto, ti saluto, buonanotte, ci sentiamo. Ciao, buonanotte anche a te. Anda a dormire che non ve la posso più. Ciao ciao. Rimani a posto, mi raccomando. Sara, cerca di rimanere a giugno. Va bagnato, bisogna vedere se è caldo. E se è caldo, di caldi. Chiappa. Vabbè, buonanotte, da. Chiara, ciao. Ora, prova, Luca, ti ascolti? Sì, ti ascolto, Pupu. Ma fai segnare adesso, ora, un po'? Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora. È salito per i 2, poi i 4. Aspetta. Luca. Eia. Non va bene, non funziona di via. C'è problemi, no? Non ho capito perché. Come mai? Ora. Come viaggia? Quanto sono? Basso sono, vero? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Sì, adesso sì. Eia. C'ho il capo in corsa, aspetta un attimo. Eia. Ora, prova. Ora, Luca. Prova qua più basso, sì. A te più basso sarà. Sì, ho capito, sì, perché io sono... Luca, mi ascolti.